oggi facciamo gli auguri al grande Vincenzo Esposito, che ieri ha compiuto esattamente 52 anni. Uno dei più grandi giocatori italiani di pallacanestro, ma soprattutto il pioniere, il primo italiano nella storia a giocare su un parquet NBA. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, auguri al Diablo Esposito, buongiorno a Paolo Onofri per aver alzato questa palla 2, aver dato il via a questo Breakfast Club. Si torna in diretta, è un velo di emozione, tradirà la mia voce come ben sapete, perché grazie al lavoro di Paolo Zanardi ogni tanto abbiamo un caramba che sorpresa. Buongiorno Paolo. Buongiorno Willy, ti porto innanzitutto i saluti del biondo Paolo Ragazzini, che è innamorato di te dal punto di vista musicale. Stai grazie, calmo. Grazie. E poi devo ringraziare Radio Città Fujiko per l'opportunità che ci dà oggi di avere un ospite d'eccezione. Sì, non solo ricordi ma anche concretezza. Sì, ma poi è un periodo che ho male a un ginocchio, quindi volevo chiedere, non è che io sono sofferente con la schiena, però devo dire la verità, a dispetto così di un fisico fragile allora e adesso qualche chilo è arrivato, purtroppo non sono mai stato un rompiscatole tra virgolette con i massaggiatori. Erano più, diciamo, presenti per fare, come si dice, in maniera immediata e gergale, balotta. Erano, e infatti del nostro personaggio, del nostro protagonista, che lascio a te l'onore di presentare, ho un episodio in mente di cui ovviamente Nino Pellacani è stato l'autore, che vi racconterò a breve. A te l'onore, Paolo. Molto bene, signore e signori, ho il piacere di presentarvi Ugo Cavina, che è uno dei top che si può avere sulla piazza per quanto riguarda la fisioterapia e chiaramente la cura e il mantenimento del fisico degli atleti, ma non solo degli atleti. Quindi benvenuto Ugo. Grazie, benvenuto, grazie a voi per l'invito, grazie. Allora Ugo, io ti ho riconosciuto nonostante qualche capello bianco in più, io nonostante qualche chilo, e quindi questo già è un bel segnale per iniziare la nostra diretta. L'episodio in questione, Ugo Cavina. Allora, andiamo indietro di 35 anni, non sto scherzando, ho fatto i conti, sono 35 anni. E ricordo che sulla panca delle fasciature, negli spogliatoi di Piazza Zarita, c'era questo disegno, Nino Pellacani, grande grafico, allora studente, non era ancora affermato come poco dopo poi capitò nell'ambito della grafica e del disegno, e disegnò perfetta una mucca, tipo mucca Carolina, e scrisse Ughetto Vacca. Allora ho detto, ma Ugo Cavina è Ughetto, è lui, e infatti è lui. Ricordi quel particolare stilizzato di questa mucca dolcissima, bellissima, e scrisse Ughetto Vacca? Non è offensivo? No, assolutamente, a parte che io sono Ughetto oramai da mia mamma in poi, sono Ughetto per tutti, anche per i colleghi spesso, quindi assolutamente non è offensivo. E mi ricordo di questo disegnino, mi ricordo la mucca di Nino, anche perché con Nino negli anni comunque l'amicizia è continuata, ci vediamo tuttora, quindi certo, c'è grande affetto e stima reciproca. Lo salutiamo, è stato assolutamente. Chissà che non arrivino delle sorprese, perché ogni tanto noi facciamo queste improvvisate. Titolare della Fisiodom o responsabile o sì, quello adesso il ruolo, ogni tanto io prendo delle dritte e faccio delle gaffe, però sei il Fisiodom, che di cui parleremo tra pochissimo. Intanto iniziamo la nostra chiacchierata tra musica che tu hai scelto specifica. Assolutamente. Hai detto, mi arriva il messaggio per interposta persona, cioè Paolo mi dice, non è che puoi mettere musica tipo Galliano, Jamiroquai, tutto quello che era acid jazz, cioè praticamente avete invitato un oca a bere. è la musica per me questa, ed è la playlist del Breakfast Club di prima mattina, 70% composta da queste realtà, per cui insomma ho deciso di andare ancora più sul difficile nell'acid jazz, ricercare dei brani, dei rare groovy, insomma. Ugo, dopo la Fortitudo, cos'è successo? Dopo la Fortitudo è successo che io ho continuato a fare il mio lavoro, ma ho continuato comunque a collaborare, collaboro tuttora, quindi a parte gli anni in cui ero a sedere in panchina, poi ho continuato a collaborare con tutti i ragazzi. Quanti scudetti hai vinto? Scudetti? No, lui ha vinto uno, con Charlie Recalcati. Beh, sì, anche. Signore, Sì, io sono qui, ascolto attonito. Io non seguivo più. Una Coppa Italia, uno scudetto e il secondo scudetto. Ormai non ero più sempre presente, ma comunque diciamo anche uno scudetto e mezzo, dai. Senti, vuoi dire qualcosa di positivo sulla Virtus? No, dai, non ce la fai. Faccio fatica, anche se anche se ho molti amici. No, adesso parte gli scherzi, ho molti amici e nell'ambiente ci si conosce tutti e diciamo che l'invidia che abbiamo uno nei confronti dell'altro per motivi diversi comunque porta poi all'amicizia, porta a conoscere, assolutamente. Vabbè, ma è il sale della sfida, certo, no? Tuttora quando arrivano ex giocatori in ambulatorio, perché si fanno ancora male anche se non giocano più, poi, anzi forse è più rischioso, forse più rischioso, c'è comunque un clima di simil derby comunque tuttora, certo. Per cui è bello, carino e gradevole. Ma mi sbaglio, Ugo, tu sei l'erede di Facchini, uno dei primissimi massaggiatori fisioterapisti della Fortitudo? Io iniziai quando lui smise, esatto. Lo storico Facchini, storico, cioè, con i baffi, gran personaggio. Sì, io mi ricordo invece che era veramente anche questo geniale, lo adoravo, un po' assente, un po' sempre distratto, Berni. Grande Berni è un grande personaggio, sì. persona umanamente parlando, fra l'altro di grande spessore. E ho perso un po' le notizie, le sue, so che si interessa di pallamano addirittura, ah, okay. Credo che sia proprietario, comunque dirigente di una società di pallamano e continua a fare il suo lavoro. Non bisognerebbe mai parlare o conoscere i propri idoli da vicino, perché come diceva un noto filosofo francese, i tuoi idoli quando li guardi da vicino scopri che hanno i foruncoli. E infatti, tornando da una trasferta, ricordo con Berni in pullman col più grande giocatore col quale io abbia mai condiviso il parquet, cioè George Bucci. George Bucci era un po' alticcio, no? E Berni era l'addetto alla selezione del film. Ti puoi immaginare? Ho già capito dove andiamo a parare. E io stupito, ero un ragazzino. Allora Berni, allora che film mettiamo? E dal fondo si sentì George con questa voce: ehi Berni, pornaccio, pornaccio! Groove che ritorna, playlist alternativa di Rare Groove, appunto. Mi sono stati chiesti Incognito, Galliano, ma che sono capolavori, pietre miliari della playlist del Breakfast Club. Ho deciso di prendere dischi paralleli, chiamiamoli così, di band, gruppi, realtà magari meno famose, non sono sotto i riflettori come le precedenti, ma che hanno scritto grande musica. Slice of Heaven è una fetta di paradiso per voi, loro sono i Repercussion. C'è la vocalist, non ci accontentiamo di una parte, ma vogliamo tutto per realizzare i nostri sogni, to make my dreams come true. Repercussion 103.1 Radio Città Fujiko, Mood Groove con Ugo Cabina, con Paolo Zanardi. Allora chiediamo a Ugo se magari questa colonna sonora può essere adatta per credo abbia prestato. Dunque, prima di passare alla prima domanda, devi sapere, Ugo, che Willy, che nel frattempo io ricevo dei messaggi. Oddio. Tra tutte persone che mi parlano non bene, sempre benissimo di Ugo Cabina, quindi abbiamo di fronte una persona che è estimatissima, serissimo professionista, al quale chiedo: ma come ti è venuto in mente di fare questo lavoro? bella domanda. Rispondi forte e chiaro. Diciamo che dopo le superiori ero indeciso su cosa fare. Mi piaceva e mi attirava molto il mondo medico. Fare medicina era un percorso veramente lungo, impegnativo, e allora c'era questo corso, allora già universitario, che si chiamava terapista della riabilitazione, poi è diventato laurea in fisioterapia, che era già 3 anni, e ho pensato che forse poteva essere lo giusto compromesso. Ho fatto il concorso, sono riuscito a entrare, perché già allora c'era il concorso d'ammissione, e da lì poi è cominciato il percorso professionale. E il fortitudo come ci sei capitato? Il fortitudo assolutamente per caso. Ma come sempre succede. Facchini mollò insieme anche all'allora medico, che adesso non mi ricordo come si chiama, e quindi la responsabilità medica fu affidata al dottor Sgarzi e al dottor Quadrelli, due figure storiche importanti, assolutamente, dal fortitudo. Io li conoscevo, eravamo amici, e vennero da me dicendomi: guarda, noi ci andiamo, però vieni anche tu con noi. Io a quel punto ho detto: ok, partiamo, e siamo partiti e siamo ancora qua. Nel frattempo sono arrivati saluti di Nicola Rotunno, che in questo momento è al fisiodome e mi dice: mi sto curando il ginocchio con grande soddisfazione. Vedi, è un piacere. Arrivano i saluti di Charlie Recalcati, che ti saluta con grande affetto. Vi dice: salutami tantissimo. Grazie coach. Esatto. Altrettanto, grazie coach, grazie. Ma una delle cose che così mi è venuto in mente di chiederti durante la trasmissione oggi è: quali sono le patologie più frequenti che ti capita di incontrare? Beh, se parliamo in campo, a parte quelle mentali, ma quelle non credo che voi le trattiate. Anche quelle, secondo me, però ne parliamo dopo. No, in campo sportivo, patologie sono legate allo sport specifico, vuol dire, se parliamo di pallacanestro, classicamente caviglia e ginocchio fanno da padroni, anche se ultimamente con l'aumento delle stazze mediamente dei giocatori, mal di schiena iniziano a venire, e tuttora in fortitudo siamo presi dal mal di schiena del capitano, per cui è un argomento del giorno. In assoluto, comunque, diciamo, patologie da contatto, da overstress, spesso dovuto appunto all'aumento sempre maggiore dell'intensità di gioco e degli allenamenti. Ma da voi però comunque credo vengano anche tantissimi clienti che non vengono dal mondo dello sport, chiamiamolo, certo, professionista o agonistico, ma anche, diciamo, pseudo improvvisati o anche gente normalissima, no? Assolutamente sì. Consideriamo che è un ambulatorio piuttosto grande, per cui se dovessimo lavorare solo con gli sportivi sarebbe difficile. Peraltro la fonte maggiore del nostro lavoro sono gli sportivi, appunto, un po' improvvisati, quelli che si alzano la mattina a 40 anni e decidono di fare l'Ironman. Direi che sono la nostra fonte di reddito maggiore, di guadagno importante. Assolutamente, mi raccomando, sì. Ragazzi, fate l'Ironman, soprattutto se non avete fatto nulla in gioventù. Oppure piazzate, fate 3 test di Cooper di fila, esatto, così, a freddo, l'ideale. E quelli sono pazzeschi, sono peso dei professionisti. Se gli dici di star fermi una settimana è come dargli una coltellata proprio. Eh beh, la passione, la passionaccia porta poi a volte anche, appunto, a proposito di squilibri mentali, anche a tutto ciò, ne certo. Conosco diversi. Ma io dico, poi la pizza dopo, stiamo tutti in compagnia. Addirittura il medico, visto il mio sovrappeso, mi ha detto: no, alla tua età fai una passeggiata veloce e un po' di corsetta, magari costantemente, ma fai quello, non pretendere, non ti aspettare. Ma ogni frutto ha la sua stagione, voglio dire, non è che possiamo chiaramente pretendere di star dietro a gente che ha 24-25 anni. Ovviamente c'è un percorso fisico da seguire, da curare e per mantenersi in forma. Poi ci sono i miracolati, quelli no, che ma hai ragione, ogni frutto ha la sua stagione, tant'è che io adesso ho un cocomero, vedi? per te è sempre estate, Zanardi, per te è sempre estate. Allora, hai detto che è particolarmente piaciuta la musica. Sempre moltissimo, e nel frattempo arrivano i saluti a te e a Ugo di Davide Morri, dice: grande Cavina, che top, mi rimise a porta il ginocchio tanti anni fa. Ma abbiamo un sacco di fan, no? Tutta gente scavigliata, menischi, sì, rieducazione, sì. Oggi è un bellissimo lazzaretto. risposta è Brand New Abyss della label Acid Jazz, Incognito della label Talk Loud di Gil Peterson. Sono tutte sonorità che nei primi anni 80, dalla fine degli anni 80, mettono insieme l'impro jazz, le sonorità elettroniche, la cocktail music, il pop easy listening, per un gustoso rinascimento della musica afroamericana. Tutto questo nelle label indipendenti più importanti, come quelle che ho citato prima, ma a livello mondiale anche la tedesca Dorado, anche dal Giappone, con tante colonne sonore per quei tempi e per quelle micro sensazioni che hanno il sapore, la colonna sonora della primavera e della prima colazione in diretta sui 103.1 AC Jazz con Ugo Cavina, con Paolo Zanardi, con le ascoltatrici e gli ascoltatori, che prima scherzando ho detto un lazzaretto, ma non è esattamente così, eh? Guarda, okay, quindi posso andare avanti. Questa messaggio volta di Alberto Ballesta, la cervicale questa volta. No, cos'è? Messaggio di Alberto Ballesta: un grande saluto a Ugo Cavino, a Cavina, che mi ha curato il menisco mediale sinistro. Poi un altro messaggio. Grazie, Vale. Un altro messaggio: i ragazzi di Ugo Cavina sono di primissima, a me segue una certa Carlotta, puntini puntini, non vado avanti. E a questo punto, Ugo, sei messo un po' in secondo piano, sei arrivata Carlotta, che salutiamo peraltro. Assolutamente, Carlotta è una delle colleghe del Fisiodom e bisogna assolutamente fare un passo indietro, anche perché lì come scelta... Prendi pur tempo. No. È sempre stato un diplomatico. No, sì. Vabbè, cioè, lui ha avuto a che fare con Zatti, Pellaccani, John Douglas, Leon Douglas, ed eri giovanissimo anche. Avevo 23 anni. 23 anni con questi personaggi. Io mi ricordo che eri molto dimesso, molto così. Beh, chi è che ti ha rotto le scatole di più? Adesso puoi dirlo. Prenditi la tua vendetta. Ughetto, dai! No, rotto le scatole assolutamente no. C'erano personaggi più impegnativi e meno impegnativi, ecco, diciamo, da gestire, però assolutamente li ricordo tutti con affetto. Il più piagnone? No, di Piagnoni Fortitudo non me ne ricordo. Ah, grazie. Vedi che non riusciamo a fargli parlare male. Quindi la domanda adesso è: i peggiori centri fisioterapici di Bologna? Giusto così, tanto per metterlo così, a suo agio. Per farmi degli amici. Quindi, esatto, soprattutto perfetto, quello. Perfetto. La nostra conversazione ogni tanto torna anche seria. Sì, Paolo, certo, assolutamente. Peraltro lui ha scelto come sport qualche cosa effettivamente che non è per nulla pericoloso, perché so che è un grandissimo appassionato di vela. Wow! Diciamo che io sono un cittadino che ama andare per mare, sperando di non far danni a sé e agli altri, però sì, è da un po' di anni che insieme ad un amico, proprietario di una bellissima barca a vela d'epoca, del 1948, giriamo con la famiglia e ormai abbiamo girato quasi tutto il Mediterraneo. Quindi. Ti lancio un'idea, un centro fisioterapistico sulla barca. Ma segnale. Devo dire che ci avevamo già pensato, perché qualche anno fa ci era venuto in mente di fare una cosa che si chiamava Wellness and Sail. Vedi? Abbiamo provato, abbiamo visto che era particolarmente apprezzato e allora rischiava di diventare un lavoro, quindi abbiamo smesso. Immaginavo. Beh, certo, vuoi mai, ne abbiamo già abbastanza. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che lo sport procura un indotto assolutamente esteso per quanto riguarda anche i lavori che vi vivono intorno. E beh, che dire, con la musica Cigezza alle 8:24 minuti, con la sonorità, la playlist odierna, le chiacchiere che ogni tanto divagano, perché i ricordi e anche il piacere di ritrovare Ugo Cavina di Fisiodom, oggi ospite speciale al Mutu Groove. Magari poi ce ne sarebbe da dire, come ogni puntata, che si rischia di sforare, ma è sempre un piacere. Allora, siamo arrivati alla domanda un po' particolare prima della pubblicità. C'è anche un aspetto psicologico? Certo, nel nostro lavoro assolutamente sì. Noi qualsiasi tipo di paziente dobbiamo affrontarlo non solo da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista anche psicologico. La motivazione e motivare i pazienti fa parte del nostro lavoro e credo che questo faccia la differenza assolutamente. Certo, io ricordo anche questo aspetto che è abbastanza iconografico, no? Con questi atleti di statura elevata e il massaggiatore, il fisioterapista durante i minuti di sospensione che porta conforto massaggiando la schiena. Ed è, sì, quando ci si arriva, perché qualche volta... Noi ci avviamo pian piano verso il primo stacco pubblicitario e con i nostri percorsi alle 8 e 25 minuti, come si dice a questo punto, stretching. Stretching e un saluto da Sandro Caramori che mi dice: salutami Ugo perché conosci le mie caviglie meglio di mia moglie. Adesso non capisco. Beh, questa ce la spieghi, Urias. Urias infatti è stato un po' ermetico questa volta. È un Garetti crepuscolare. Esatto. Come le caviglie d'autunno. Le foglie. Don't let me start this. If home is where the heart is, with her I feel at home, and even when we're apart, it's strange, but I can feel her presence beside me. So in a sense, one could say that she guards me. Now I'm remembering the first time I saw her. Feeling is far, but whatever, let's say you're a part. I never would have thought, see, I never could have known how the one chance clown soul of this could have grown. And that's the beauty of it. You see, it grows and it's natural. What can I say? In every way, we're compatible. Talk is cheap, but times we don't speak. Cause we're engrossed in thoughts that are deep. It's like two hearts, or two minds, two bodies, two souls, making one whole. Now it's gotta be told that what we have is more than just physical. Don't be so cynical, we got a spiritual. Let me tell you about us. On the line of word love. See, it ain't about lust. It's a spiritual love. Oh, what a feeling. Impossible to measure it. One can only treasure it. Sorta like a legacy. Maybe it's my destiny. Maybe it's a test for me to bring out the best in me. Who knows, who cares. Io saluto Marco Bersani che ci scrive al 333-180-9494. Vediamo se abbiamo altri contatti a cui portare il buongiorno. Beh, Cinzia, buongiorno a William Piana, a Paolo dalla nostra Cinzia, buongiorno a te. Now it's gotta be told that what we have is more than just physical. Don't be so cynical, we got a spiritual. L'importanza nella jazz dell'hip hop, in questo caso, beh, i protagonisti sono stati i progetti Guru Jazz Mataz e in questo caso Urban Species dal disco Listen. Stiamo facendo stretching e ci rilassiamo con questa spiritual love. Poi andiamo in pubblicità e torniamo in diretta. Paolo Zanardi, Ugo Cavina, Breakfast Club, Radio Città Fujiko. Non cambiate frequenza, restate con noi, altrimenti le caviglie poi ne risentono, Jump on, jump out, call your loving price. Yes, I want a strong, strong lover, we don't understand it. Turn her in a wifey and just put on the ring. Together forever, that's how it's gonna be. You'll be my goody, goody girl, I'll be just a man of the angel. colors of the rainbow, yellow sunflower in my hair, growing petals everywhere, silver rashes in the stream, thinking about you in my dreams. White clouds, blue sky, going sand in my shine, northern lights, apple green, fill the of the rainbow, orange petals in the rain, dragonflies along my way, watch the crowd, they come and go, where they head in heaven knows. Attenzione a come riprende il brano, eh? Che bello, bello, bello, bello. Sono i Mother A, Apple Tree. Tutti i tempi al Mutu Groove, un'altra puntata a tutti i tempi. Grazie Paolo Zanardi intanto per l'impegno, l'ottimo lavoro, la costruzione, la struttura, gli ospiti invitati, i protagonisti da noi anche per oggi martedì 2 marzo 2021. Ugo Cavina, fisioterapista ai tempi in Forza alla Fortitudo, dove ha portato anche successi, uno scudetto e mezzo, ma per me tanto di più, una grande professionalità, un grande impegno e una grande carica umana. Possiamo mettere in palio? Oddio, oddio. Un massaggio da Fisiodo, ma chi risponde a un quiz che ci possiamo inventare. Io sono noto per i quiz difficili. Vai, parti allora. Ah, ci penso, poi dopo magari sei d'accordo, Ugo. Assolutamente sì. Dai, ok. Io ci penso, poi dopo il prossimo stacco musicale. 333-180-9494. Bentornate, bentornati al Mood Groove. Noi proseguiamo tra chiacchiere e musica. Detto ciò, ascoltavo nel fuori onda, perché di solito nei fuori onda vi sono degli spunti importanti. Io ovviamente sono qui per imparare nelle vesti di DJ, che è la professione che attualmente svolgo come speaker, una volta atleta, ora dietro la console e non sotto le plance. Stavate parlando di nuove tecniche per quanto riguarda la fisioterapia e il recupero degli atleti. Di che si tratta? Esatto, Paolo? Stavo infatti chiedendo a Ugo quali sono le nuove frontiere della fisioterapia, perché in particolare, andando a vedere le foto sul web che lo riguardano, ho visto un aggeggio più da maniscalco che in realtà da fisioterapista. È un oggetto, cos'è? Una vergine di Norimberga? Non lo so, una roba metallica che loro ho detto, adesso gli devo chiedere che cos'è questa storia. No, in realtà è una tecnica piuttosto datata negli Stati Uniti, è presente da quasi 30 anni, si chiama Graston Technique, ed è una tecnica di mobilizzazione e massaggio delle parti molle attraverso strumenti metallici. Questo intanto ci salvaguarda un po' le mani, perché usiamo degli strumenti, e in più ci permette di essere più precisi e più incisivi nell'intervento, migliorando ovviamente quindi il nostro intervento Tecnica molto interessante, lo stiamo usando veramente tanto negli sportivi, ma anche non solo negli sportivi. Quindi, come mi dicevi prima, nel fuori onda ha innanzitutto un beneficio proprio dal punto di vista del risultato, e poi comunque interviene un po' anche sulla tempistica, comunque sì, beh, allora se pensiamo a un ematoma, se riusciamo a far riassorbire l'ematoma in tempi più brevi, chiaramente abbiamo vantaggi nella tempistica e abbiamo vantaggi nella qualità, perché se riusciamo a far riassorbire un ematoma velocemente, chiaramente la qualità muscolare rimane migliore, per cui ci sono vantaggi sia nell'uno che nell'altro, ma direi che la gara non è tanto sui tempi ma è sulla qualità del recupero. E oltre a questa Graston ci sono altre nuove, diciamo, tecniche o magari anche soltanto attività più richieste da parte dei vostri pazienti? Ma nel campo sportivo un po' di anni fa ormai è di uso comune, sono i famosi cerotti colorati. Ah, giusto. Ah, è vero, orrendi, non li posso vedere. No, assolutamente. Sono utili invece. Scusa, sono, Ugo, se sono mi sono una cosa. Io non sopporto tutti quegli atleti che sembrano bardati. Guarda, qui quanto ho sofferto. E sembra incredibile che una strisciolina così dia così tanto beneficio. Invece... Sono stato in Vietnam, ho le ferite, gioco lo stesso. Insopportabili. Vai. Scusa. E invece dietro c'è tanto studio e tanta tecnologia. Questi sono stati inventati da un dottor Case, che è un nippo americano, negli anni 70, e dietro c'è veramente tanto studio e oramai ci sono anche molte evidenze su questo kinesio tape. Che se usato correttamente, e non per fare dei tatuaggi semipermanenti, ma se usato con criterio attraverso la metodica seria, ha grandi vantaggi. Certo, intanto il quiz di oggi per il Mood Groove, che magari prenderà piede anche nelle prossime puntate per avere un massaggio, oppure deciderà Ugo come curare o come intervenire per il vostro benessere, basta rispondere a questo semplicissimo quesito: chi era il centro ex ABA a Kentucky, poi a Chicago, in seguito a San Antonio? La so. No, tu non puoi rispondere. Giocava con il numero 53, arrivò in Italia con il numero 5, statura 2,18 m, colored, giocatore mancino, arriva alla Fortitudo Bologna. Chi scrive nome e cognome di questo atleta, il premio l'ho già detto in precedenza, mi raccomando, 333 180 9494, aspetto le risposte. Poco rassicurante questo utensile aggressive, come si chiama? No, Graston. Graston. Ok, scusa, ma io sono sempre timoroso ogni volta che si avvicina un camice bianco, anche solo per provare la pressione. Allora, chi era? Chi è questo centro mancino dai movimenti? Mi hanno già risposto, Ok, prego, lo vinto. Dico, certo. L'ha detto Sandro, certo. Caramori, mi ha scritto, Grande Urias, chi ha scritto? Paolo Rossi? No. Eugenio Capone? Doio Gallinari? No, chi è? Artis Gilmore. Artis Gilmore, The Artist. Punto, lo aspettiamo in diretta, Urias. Se vuoi dopo gli facciamo un'altra sorpresa, sarà come un cliente che vende un appartamento. Okay. Ascolta, Ugo, ti volevo invece chiedere questo: una volta io ti ho tradito, lo ammetto, sai, okay, che io ogni tanto ti ha fatto le corna, Ugo, esatto. E del resto può succedere, una vacchetta, certo. Sono stato affascinato dal rolfing, che immagino continuiamo. Il rolfing è una categoria di U-Porn, no? faccia del gran Rolf. Esatto. Ma cosa mi fate dire? No, magari invece è una boiata quella che ho detto. Però io mi sono trovato benissimo con il Rolfing. Il Rolfing è praticamente ideato dalla signora Ida Rolf, tedesca. Ed è forse il precursore della Graston Technique, cioè di tutte queste per tecniche di mobilizzazione attraverso strumenti metallici. Con il Rolfing invece di usare strumenti metallici si usa il gomito, che si usa tuttora. Io direi che di gomito ci sono andato parecchie volte. Aiuta molto. Allora, io ho fatto questa domanda perché per dire la faccia stupita di Willy, perché di solito è il contrario. Quando lui parla di musica e cultura, io ho gli occhi sgranati come lui adesso quando parliamo di fisioterapia. Sì, perché no, Rolfing è una tecnica molto perché molto poi ricordo valida, che io molto valida, essendo un po' molto massiccio intensa, molto avevo intensa. Bisogno di uno che facesse e avevo conosciuto un soggetto di Rimini che era un omarino così ma con una forza pazzesca che mi ha rimesso in piedi. Certo, no, ma assolutamente vero. Rolfing è una tecnica conosciuta, molto seria e soprattutto in campo sportivo molto molto usata. Posso salutare chi mi ha salvato la vita dal punto di vista di queste pratiche discipline in seguito a una brutta caduta che feci a Forlì. Non mi accorsi neanche perché il corpo era ancora caldo, mi ritrovai veramente con dei grossi problemi all'inguine, alla schiena, ma importanti, tuttora hanno lasciato le tracce questi scontri e queste contusioni. Vorrei ringraziare, sicuramente lo conosci, Franco Guolo. Franco Guolo, grandissimo. Un fisioterapista e osteopata molto molto bravo, assolutamente una pietra miliare nell'osteopatia e nella fisioterapia a Bologna. Sì, ti ho tradito anche con lui. Non è un tradimento assolutamente, perché con Franco Guolo c'è assolutamente stima. Diciamo che io sono ufficialmente insieme a Franco Guolo. Ah, da noi non lo sapevo. Quindi in non me l'aveva detto, adesso gli scrivo. Se vado da Fisiodom sarebbe un cornino a Guolo, ecco. però è bello anche curarsi, ma non averne anche bisogno, certo. Perché vuol dire che siamo ancora abbastanza integri, come stiamo arrivando integralmente quasi al termine di questo Mood Groove di oggi, martedì 2 marzo 2021. Vi ho detto, la C-Jazz ha spaziato per tutto il mondo. Questa Organism è una formazione nipponica giapponese. What is she got to be invented? Nemmeno una chiacchiera con Ugo e teniamo come base questo brano degli Organism e ci salutiamo perché tra pochissimo l'Edipè enciclopedico inizierà per dare spazio a Liberi Dentro a seguire rassegna stampa curata dal Alfredo Pasquali in seguito Attenti a noi due con Andrea e Susanna, la cultura di Minerva di Rachele Copparoni e le notizie con i GR di 103.1 porteranno al termine il nostro palinsesto mattutino. To find a way to your heart that glows like a thief, I'll steal inside and take your sun with me. Open up and let me. Progetti futuri, Ugo, lo chiedo sempre. Cosa? Andare a fare un giro intorno al mondo. No. In barca. Decidere cosa fare da grande lo devo ancora decidere, però dai, progetti futuri, a me piace comunque tuttora fare il mio lavoro perché mi entusiasma ancora, per cui nel futuro spero di farlo sempre meglio. E i ragazzi giovani che cosa consiglieresti? Il Ugo Cavina di oggi che ha 23 anni, cosa gli consiglieresti? È vero, pensa Ugo. Fai un passo indietro, cosa ti consiglieresti e quindi lo trasmettiamo ai giovani che sono tanti e che ci stanno ascoltando. Mettere sempre della passione in quello che si fa, qualsiasi cosa si faccia. Dicono tutti la stessa cosa, incredibile, Da Recalcati a Savic. È meglio parlare di Rolfing. cry. I can see your feelings when you smile. Got to be invention mi scuso con le ascoltatrici e gli ascoltatori, sarà stata la gioia della giornata di incontrare Ugo, insomma sono stato un po' troppo ridanciano oggi. Ma ci vuole, rispetto Willy, con il periodo che viviamo, ma averne dell'allegria, dai. Sono stato un po' ridanciano, ma è anche la gioia di aver ritrovato Ugo, quante microsensazioni, ricordi, io ero un cimo, avevo 16-17 anni, per cui... Tra anche lui, io, Beh, lui poco più grande. Radio Città Fujiko, rincontro. Io saluto, mi sembra che, allora, a giocare era tristo come l'acqua dei balogi, non me ne voglia dire nome e cognome, però non è un'offesa, è un parere personale, per cui è Mirko Branchini che... No, vabbè, poverino, cioè ottima persona, ma è tristo come l'acqua dei balogi, ma va benissimo, ci mancherebbe, ognuno ha le sue propensioni, poi può darsi che il mio gusto e le mie attenzioni siano completamente sbagliate. Intanto saluto Mirko, ma glielo dico tranquillamente, lui ride, per cui, ma come Andy Russo, come Picciarelli, come ne potrei citare una pletora. Sapete che io sono molto spietato e draconiano, per quanto riguarda il basket, e anche molto sincero, poi incorro anche in sbagli e inciampi clamorosi. Conosci Mirko? Lo conosco perfettamente, lo devo vedere stasera, però. Bene. Ah, bene. Salutamelo tanto. Va bene, allora a questo tristo, punto tristo a giocare a pallacanestro, però è diventato un bravissimo fisioterapista, ed è poi assolutamente un grande professionista. Comunque grazie Ugo di essere stato con noi, non so se ci saranno altre puntate. Domani voltiamo pagina con Silvia Albertazzi, nuove uscite che presenteremo nel mondo dell'editoria. Oh, leggete in questo periodo, poi quanto mai, che ha un balcone, che ha una finestra, godetevi il sole di questa anticipata primavera. È un bellissimo consiglio del voltiamo pagina, mi sono portato i tre libri che presenterò domani, così ogni tanto vado ad approfondire i motivi, le sensazioni per le presentazioni del voltiamo pagina con Silvia Albertazzi domani al Breakfast Club. Libri a colazione, piovono libri domani, Pianista con Pearl to Bot, il brano, la voce di Carmen Landi, lui è Jason Ribello. Ugo, grazie, che dire, io ti auguro il meglio, anche di più, se vuoi, non so, ti porto tutti i dischi intanto che fai giri intorno al mondo, massaggi, fisioterapia, Fisiodom avrà una colonna sonora parallela al Breakfast Club. Da oggi la colonna sonora sarà Fujiko. Grande, assolutamente grazie. Comunque devi sapere che lui capita tra Recalcati e la prossima settimana, ragazzi, no, non me ne parlare perché mi tremano le, cioè sto montando l'intervista, Paolo. Allora, tu non hai idea, ascoltatrici e ascoltatori, non potete perdere la prossima settimana, martedì alle ore 8, perché chi c'è, Willy? Amici sportivi e non sportivi. Mamma butta la pasta, okay? Sì, ma non uno che imita lui, cioè abbiamo Dan Peterson, ragazzi, e Boston sbanca Philadelphia. Trenta domani, puntuali, prima colazione in diretta. Un grazie a Paolo Zanardi, alla prossima settimana. Grazie a te, Willy, e grazie ancora a Ugo Cavina. Ciao Ugo. Grazie a voi, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti.